Totem, tubi, bai. Oggetti quotidiani nell'ultimo bai. Totem, tubi, bai. Oggetti quotidiani nell'ultimo bai. Mostra a cura di Roberta Cerini Bai e Alberto Rolla. Crema, 5 dicembre 2014, 7 gennaio 2015. Presso il Museo Civico di Crema e del Cremasco, Piazzetta Winifred Terni De Gregori, 5. Da Enrico Bai, idraulica, Schira, Gio Marconi, Milano 2002. Io sono pittore, scultore, incisore, ceramista, giornalista, saggista e mediosaccente. Molti nella nostra prospera e futuristica città mi superano di gran lunga per eccellenza tuttologica. Ho sempre amato, sin da bambino, guardare a bocca aperta, per cui subii il supplizio dell'ablazione delle adenoidi, e lavorare con le mani. Talvolta mi piaceva anche riflettere. Ho sempre pensato che in montagna si sta bene, perché lo sporco, che è più pesante del pulito, per la legge di Newton, qui degnamente ritratto, cade in basso e poi dagli arenili, dalle bianche scogliere e per mille calette, anfratti e rivoli di percolato, va a inquinare persino orsi, foche, balene e pinguini. Fuggii in montagna in Svizzera già nel 44, perché mia madre odiava la guerra, come credo ogni madre di probabili combattenti. Tornai nel 1957 tra le montagne, che allora erano invase da ultracorpi, che poi si travestirono da generali carichi di medaglie e dediti al perenne bombardamento dell'umanità. Ora, nell'anno 2002, sono tornato in montagna per scoprire sorgenti, ruscelli, cascatelle e ogni altra suggestione idrica che, ingrossandosi, si tramuta in fiume femmine straripanti, debordanti, esondanti, allaganti, esuberanti, contro cui nulla possono fare i maschi badanti. Trasportato alla mia età dalle acque delle femmine fluminensi, sono approdato tra tanti piccoli monumenti che ho eretto alla gloria del sapere idraulico. Questo è tutto. Per il momento non ho altro da aggiungere. Da Enrico Bai, idraulica, Schira Gio Marconi, Milano 2002.